Garibaldi fu ferito ad una gamba. Il Gazzettino del Risorgimento. Storie da una giovane Italia. Per Garibaldi, viva! Di Simone Spezia e Paolo Piacenza. 1861, a Firenze la prima esposizione nazionale. Anche l'Italia ha la sua esposizione. Inaugurata in pompa magna il 15 settembre da Sua Maestà il Re Vittorio Emanuele, la prima esposizione nazionale di prodotti agricoli industriali e di belle arti si tiene in Firenze, nella sede rinnovata della stazione Leopolda, vicino a Porta Prato. Qualcuno ironizza sul regalo che il presidente del Consiglio, il fiorentino Bettino Ricasoli, ha fatto alla sua città, ma tant'è. La stazione Leopolda, abbandonata nel 1860 dopo l'apertura di Santa Maria Novella, è stata trasformata a ritmo serrato. Per il gran caldo e i tempi stretti si è lavorato pure di notte. Poi è arrivato il momento della grande inaugurazione e anche quello c'era da aspettarselo delle polemiche. La prima riguarda la pittura. Nel padiglione delle belle arti sono stati ammessi alcuni esponenti di un nuovo movimento pittorico, quello dei macchiaioli. Contro i canoni dell'arte accademica, questo movimento in larga parte toscano propone una pittura basata sulla macchia di colore. L'effetto è interessante, ma per molti è una scandalosa rottura delle regole. Sul campo dell'arte c'è stato anche un confronto diretto tra due pittori, Gerolamo Induno e Giovanni Fattori. Entrambi combattenti hanno dipinto la stessa battaglia, quella di Magenta. L'opera di Fattori è piena di luce, ma racconta una retrovia dopo lo scontro, mette al centro umili soldati e un carro ospedale. Induno, ex garibaldino, ha presentato un'opera non ancora terminata, ha scelto colori cupi, ma ha messo in mostra il cuore dello scontro, due stili, due modi di leggere l'epopea nazionale, che creano anche due partiti tra gli appassionati. Un'altra polemica riguarda l'oggetto principale della manifestazione, la produzione industriale, le arti applicate, la tecnica. Chi è stato alle grandi esposizioni di Londra del 1851 e di Parigi del 1855 lamenta che l'esposizione fiorentina mette in evidenza l'arretratezza dell'industria nazionale. Ma il successo di pubblico c'è e gli espositori non sono mancati. Siamo a quota 8.500 con diversi provenienti dall'estero, Veneto e Lazio compresi. Paolo Piacenza, il Gazzettino del Risorgimento, Radio 24.